sfido, zio. A te salta, io vivo, io guardo, io so chi sono, io. A te salta, io vivo, io cammino, io se ti trovo, io scuro, io ti sfido, zio. A te salta, io vivo, io guardo, io so chi sono, io. A te salta, io vivo, io cammino, io se ti trovo, io scuro, io ti sfido, zio. E quindi A testa alta, un pezzo classico del hip hop del 1998, La Pina con i Colle del Fomento, insomma un pezzo che ci piace molto. Sì, quest'oggi insomma vedremo un po' di fare una rassegna stampa di quello che è successo durante questa settimana, focalizzando l'attenzione appunto un po' su delle pratiche di lotta e appunto proteste che ci sono state non solo in Italia ma anche altrove in Europa. E prima di iniziare nel vivo della trasmissione andiamo a ricordare quelli che sono i contatti per interagire con Radio Blackout, quindi 011 24 95 669, il numero di telefono fisso, e 346 66 73 263, il numero di cellulare. E ricordiamo anche che insomma i Colle del Fomento saranno a suonare il 31 maggio al CSA Scatasuna, proprio benefit per Radio Blackout, la vostra radio preferita, quindi non perdetevi, è sicuramente un'occasione in più per sostenere le libere frequenze di Radio Blackout. E insomma adesso prima di andare appunto più nel profondo della trasmissione vi mettiamo ancora qualche pezzo musicale, vi presentiamo l'artista di oggi, lei si chiama Bebe, questo è il suo primo singolo d'esordio appunto del 2004. Questa artista è un'artista spagnola, è nata a Valencia del Cantara il 9 maggio 1978. E appunto Bebe il suo nome d'arte che in realtà appunto prende da Nieves Rebolido Villa, che è il suo nome vero. Vi lasciamo questo suo pezzo e poi continuiamo. Buon ascolto. Cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres. No se daña quien se quiere. No, tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres. No se daña quien se quiere. No, tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. El día es gris cuando tú estás y el sol vuelve a salir cuando te vas. Con el fogón 16:13, allora andiamo a continuare questa puntata di Interferenze in questa domenica di sole. Iniziamo subito a parlare di una protesta che c'è stata due giorni fa a Madrid, nella capitale spagnola, dove appunto la polizia ha caricato brutalmente una protesta di donne. Questa protesta, che appunto era stata portata avanti da centinaia di attiviste e attiviste davanti alla sede centrale del Partito Popolare, alla casa del Ministro della Giustizia, era una protesta volta appunto contro la legge che limita il diritto all'aborto. E questa protesta, diciamo, è stata effettuata secondo questa nuova pratica che sta prendendo sempre più piede in Spagna, ma anche appunto in Italia, come vedremo più tardi, questa pratica delle scratches, che vede decine, addirittura centinaia di persone concentrarsi davanti alle case di esponenti politici e rincorrerli in bar e ristoranti per protestare contro le politiche di austerity, sfratti, chiusura degli ospedali. È una pratica che deputati e dirigenti del Partito Popolare non hanno scusate, affatto preso bene, e che già comunque ha portato denunce e polemiche sul presunto carattere violento di questo tipo di manifestazione, che alcuni esponenti della destra hanno anche addirittura paragonato al terrorismo dell'ETA. E questa, appunto, questa scraccia che è stata portata avanti questo venerdì contro il ministro della giustizia Alberto Ruiz Gallardón ha assediato in Calle Genova a Madrid questo ministro. È stato assediato da centinaia di donne che protestavano contro questo progetto di legge che vuole limitare drasticamente il diritto delle donne a poter ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza. Questa protesta è appunto andata avanti tutto il giorno, tant'è che poi la polizia ha dovuto intervenire verso sera per cacciare via e caricare brutalmente questo corteo, tra l'altro provocando anche diversi feriti. E diciamo che, insomma, sempre per le stesse istanze, per le stesse ragioni, ovvero quella di rivendicare il diritto alla libera scelta di maternità oppure no, si è dato una grossa manifestazione anche qui da noi la scorsa settimana a Roma, dove era stata convocata una marcia per la vita, in cui appunto i soliti cattolici integralisti, piuttosto che la destra fascista spalleggiata da Le Manno, che aveva autorizzato questo corteo, e proprio nella giornata del 12 maggio, quindi anniversario della morte di Giorgiana Masia, invece aveva rifiutato l'autorizzazione al corteo delle compagne e dei compagni, che in quel giorno avevano intenzione di mettere in piedi ben altro tipo di iniziativa. I compagni e le compagne si sono comunque autoconvocati in un corteo che è partito da Campo dei Fiori, e durante il percorso numerose sono state le occasioni per comunicare, insomma, alla città che, se il corpo delle donne è un campo di battaglia, sicuramente non saranno loro a tirarsi indietro, ma anzi, non lasceranno nessuno spazio sicuramente al movimento per la vita, diciamo, cosiddetto movimento per la vita. Thank you. Sempre a proposito di escrace, escraces, insomma, siamo un po' indecisi sulla pronuncia, ma Camilla, insomma, si è documentata. E anche questa settimana, anche a Torino, diciamo, si è data una forma di protesta che appunto ha avuto queste modalità, ovvero il fatto che un personaggio pubblico venga contestato o sotto la propria abitazione o nei luoghi in cui abitualmente si reca. E in questo secondo caso, diciamo, è venuto qui a Torino, dove un gruppo di compagni e compagne insieme a delle persone, delle famiglie che erano state sfrattate, sono andate a contestare Elvio Rossi, presidente dell'ATC, che è l'organismo che gestisce in maniera, insomma, sempre più con modalità appunto sempre più oscure, sempre più dubbie la gestione delle case popolari in quello che è uno dei comuni più indebitati d'Italia, dove davvero la situazione degli sfratti non direi neanche più emergenziale, perché ormai sono davvero svariati mesi che questa politica di sfratti anche dalle case ATC sta portando davvero un sacco di famiglie a ritrovarsi in mezzo alla strada. Appunto, questo presidente dell'ATC è stato contestato durante la sua pausa pranzo al ristorante, dove appunto il gruppo, diciamo, dei manifestanti è andato a dirgli che mentre lui mangiava loro non sapevano dove andare a dormire, e accusandolo, chiaramente dandogli in parte delle responsabilità di questa situazione, perché non dimentichiamo che molto spesso moltissime case dell'ATC sono vuote, sono in condizioni che definire disastrose è quasi un eufemismo, con insomma perdite, con appunto perdite d'acqua dal soffitto, con le tubature rotte, non rispettano, diciamo, quelli che sono i canoni più elementari di vivibilità, e molto spesso appunto vengono lasciate in questo stato di degrado assoluto, mentre moltissime sono le famiglie per strada. E lui, diciamo, era stato tristemente anche famoso per aver dichiarato che chi occupa le case ruba il posto a chi, diciamo, sarebbe in lista, in graduatoria di attesa. Come l'olivo suda in aceite. Mi cuerpo resbala sobre tu piel. Duerme, hombre, tranquilo en el jardín del Edén, que la humedad desprende sabor a miel. Molte comunque ultimamente sono state questo tipo di proteste, appunto passando dalla Spagna, come abbiamo ricordato prima, ma anche appunto in Italia, qua e appunto sotto i nostri occhi. E appunto recenti contestazioni sono state, cioè ci sono state anche a Roma, alla presidentessa della regione Lazio Polverini e al deputato Franceschini, e a Berlusconi anche a Brescia. Quindi insomma un'ennesima volontà di dire a questi personaggi che noi non li vogliamo, quindi insomma siete tutti invitati a partecipare a questo tipo di dimostrazioni e manifestazioni, se mai saranno presenti anche nelle vostre città. Bye. Intanto ne approfittiamo per fare un saluto agli occupanti della casa di Corso Principe Oddone che ci hanno contattato qui in radio, quindi questo pezzo musicale è per loro. Insomma, vi vogliamo proporre qualcosa di più ritmato, quindi lei è Mary J. Blige e questo pezzo si chiama Feel Inside ed è un duetto con Nas. Turn the track up a little bit. The rocking. My story, I'ma state it. You can love it or hate it. I'm just a misfit, blessed with good dick and intelligence. Hood nigga, holding no grudges or petty shit. I started. Why are we cold-hearted, so guarded? Scared to get hurt, trying not to love the hardest. That's garbage. Remember when we loved each other? Bathtub scrubbed each other, chilling, champagne spilling. Feeling like the shit gon' last forever. Time went so fast, we had a blast together. Last we had friends, we spent time with. Now I be seeing your friends out, then I'm reminded how we all used to gather up for the holidays. Now your friends all nervous to speak, they act afraid. I was your bestie, how we get to this? As I reminisce, taking off my MJs in my empty crib. Mary. Jazz pray to the east and watch the sunset. But yet I was blowing you up the other night. Could tell your girl was telling you what to write back. Tell me why it's like that. E 35, allora continuando un po' questa puntata e ricollegandoci un po' anche alle iniziative che ci sono state nelle ultime settimane, parliamo anche un po' di Notav. Appunto, la scorsa settimana, come ben sappiamo, c'è stato un forte attacco al cantiere, appunto, che è stato poi criminalizzato, e accusando manifestanti che avevano partecipato a questa iniziativa, appunto, di cercare il morto. Quindi la questura anche sta cercando di mettere anche i bastoni tra le ruote a queste ulteriormente a queste iniziative, tirando fuori un capo di imputazione di tentato omicidio, appunto, come se un attacco al cantiere, alle reti e al famoso compressore che è stato incendiato, esatto, fosse un tentato omicidio, anche se verso le cose. E quindi, ricollegandoci a queste proteste, all'ambito Notav, ricordiamo che, come ieri, al Salone del Libro era programmata la presentazione di un libro di Davide Grasso, un compagno che è ricercato da novembre per le vicende della Jehovah's Susa, per l'occupazione degli studi, e poi successivamente a dicembre per le questioni del primo maggio. Infatti Davide è da novembre in giro per l'Italia, o appunto in giro per il mondo addirittura, e in questi mesi ha scritto e pubblicato un libro, Regina Underground, che parla più che altro, appunto, di New York e delle sue vicende a New York e non solo. La cosa, appunto, importante che vogliamo ricordare e mettere alla luce, che ieri durante questa presentazione ad aspettare Davide ovviamente c'era tutto il reparto della Digos, probabilmente camionette su camionette celere anche fuori dal salone. Ovviamente Davide non si è presentato, ma al suo posto hanno parlato diverse persone che anche hanno firmato un appello che sta circolando. Tra cui anche ha parlato anche Nicoletta, facendo un intervento Notav, appunto, portando alla luce le problematiche di questi, e soprattutto le criminalizzazioni di questi ultimi mesi, e come la questura, appunto, stia cercando sempre in ogni modo di, appunto, criminalizzare questo movimento, e appunto denunciando attraverso denunce, arresti domiciliari e quant'altro. Ricordiamo ricordiamo inoltre che questo weekend appunto ci sono state, diciamo, delle prove tecniche di campeggio Notavo, una tre giorni cominciata venerdì, che si concluderà oggi, questa domenica, appunto, con una passeggiata che è iniziata, se non sbaglio, alle ore 15. I said, baby girl, brighten up the room like the lights up. You excited, nigga, till you got me feeling nice up. Everything about it still amazing, spiced up. How to steamy like my mother cooked a little rice up. See that 20 carat, please get it priced up. I'm past that girlfriend shit, baby, wiped up. Elevating, feeling like we're going a couple flights up. Next level with it, hope you ain't afraid of height. What? Skyscraper, take it higher. Even got a helicopter on the roof waiting for a storm fighter. And add a plane to the spark. And let us ride out together to the next level. Let me do my part. Feel like your hands were designed to be on my body. You best believe that. And I agree with you too. Like I was made to be your girl. Yeah, and you already know. That's why I won't give my time to just anybody. You know I'm with you, baby. It's my time, yeah. Your time, yeah. My world, yeah. The world. So if it's true with you, I'ma tell my girls go out tonight. Without me. Got things to do with you. Let's bring the party to the house tonight. Cause tonight I'm ready, yeah. E la stampa continua a trattare, insomma, la questione Notav, chiaramente come sta facendo negli ultimi giorni, dove, insomma, chiunque pensiamo abbia letto i titoli di questa settimana dopo l'attacco al cantiere, come ricordava Camilla, appunto, attacco in cui davvero è stato chiesto il tentato omicidio per chi ha preso parte all'iniziativa in maniera, diciamo, del tutto assurda, non tenendo conto di fatto che appunto il tentato omicidio di chi sarebbe, del compressore, come appunto ha risposto il movimento Notav, in cui, a parte questa battuta, con un comunicato ha di nuovo esposto come se ce ne fosse bisogno le ragioni e le modalità che ha sempre avuto questo movimento. Ciò nonostante, dopo l'iniziativa al Salone del Libro, ovvero dopo che le compagne e compagni hanno letto una parte della lettera che Davide ha scritto al movimento Notav e a tutti, in cui spiegava perché non poteva essere lì in quel momento, il titolo dell'articolo è "I Notav e il cortocircuito tra movimento e terroristi". Questo, insomma, non ci sembra che richieda ulteriori commenti, ci sembra che davvero si voglia continuare a creare un clima che è basato davvero sul nulla. Alright. Everybody get to putting up your lighter now, yeah. Baby girl, you see we shining much brighter now, yeah. Fulfilling all that you desire now. Give me your hug, open your arms a little brighter now. Damn, you see the feeling we creating. Bottle suppers, make a toast and do a lot of celebrating. Let's go to the next level. Yeah. Alright. Sicuramente quello Notav è un movimento che fa paura e, insomma, lo leggiamo anche nella lettera di Davide, quando dice che appunto lui stesso si è stupito del numero di persone in giro per l'Italia che che ha incontrato, pronte a dare solidarietà, ad attivarsi in prima persona, fornendo tutti gli aiuti che potevano essere a lui necessari in questi lunghi mesi in cui lui appunto non ha potuto essere a casa. E anche qui dai microfoni di Radio Blackout, dopo che sta imperversando in rete, ci va di leggervi un pezzettino di questa lettera che Davide ha scritto per tutti, e dai microfoni di Radio Blackout gli mandiamo un grande abbraccio se per caso ci sta ascoltando. Promesa rebuscando, yo encontré que el daño siempre se compensa. En los poros de tu piel, los errores cada vez más pesan. Cada lágrima de hiel que se derrama como aceite espesa. El camino es dudoso y no sabes por dónde tirar. Averigua que está bien o está mal. Il movimento Notava ha commesso il crimine peggiore, quello che i giudici non possono perdonare. Sta cercando di farsi giustizia da sé, bloccando questo treno e tutto il marcio che lo accompagna. Ma non è una giustizia individuale, è una giustizia collettiva, di massa e autonoma. Giancarlo Caselli può tenere conferenze nelle scuole e nelle parrocchie, dicendo che il suo pruso non va accettato. Anch'io da bambino ascoltai una di quelle conferenze e ne restai colpito, ma non può tollerare che i bambini crescano e agiscano insieme, in prima persona, senza bisogno dell'aiuto della sua toga, che già molti anni fa egli usò contro il dissenso politico in questo paese. Oggi si ritrova a gridare più militarizzazione in Valsusa, più processi, più galera per i Notav, e lo fa in coro con Angelino Alfano, il guardasigilli del Cavaliere, l'ideatore delle leggi ad personam. Se mai gloria vi fosse stata, il finale della sua carriera è inglorioso oltre misura. Pero qué bonita que es tu sonrisa, como esa mujer que sabe seducir. El arroz se le pasa en la cocina. Mira bien, fíjate, mira, mira, mira, mira qué bonita tu sonrisa, como esa mujer que sabe seducir. Nulla è più assurdo del gesto politico che mette sullo stesso piano chi infrange il codice penale dall'alto, insaziabile di denaro e potere, e chi lo fa dal basso, senza denaro né potere, per necessità o per desiderio di cambiamento. Se noi, i Notav, siamo oggi nemici pubblici, è perché siamo in realtà amici pubblici. Pero qué bonita que es tu sonrisa, como esa mujer que sabe seducir. El arroz se le pasa en la cocina. Mira bien, fíjate, mira, mira, mira, mira qué bonita tu sonrisa, como esa mujer. E ancora una volta mandiamo un abbraccio a Davide Grasso e insomma speriamo di averlo prestissimo con noi, anche se sappiamo infatti che lui è più libero di tutti in questo momento. E nell'ultima parte di questa trasmissione, l'ultimo argomento che vorremmo trattare è un argomento che riguarda da vicino la nostra città e soprattutto da vicino molte persone, molti lavoratori che appunto molti di noi conoscono in prima persona, soprattutto appunto chi studia all'università, perché si tratta della mobilitazione che sta riguardando i bibliocooperativisti di un paio di cooperative in particolare nella nostra città, ma che insomma ci sembra di presentare in continuità con l'argomento che è quello della mobilitazione del terzo settore, delle cooperative, che più volte abbiamo trattato nel corso di questa trasmissione, perché insomma pensiamo che davvero le logiche di sfruttamento di questo settore siano poi un po' tutte le stesse, quindi ci sembra davvero di allargare solo il raggio, ma che di fatto appunto si tratti sempre degli stessi meccanismi e soprattutto che le persone si stanno organizzando negli stessi modi per respingerli questi meccanismi. E a questo proposito vorremmo insomma farci raccontare dalla voce di uno di questi lavoratori che in questi giorni appunto si sta mobilitando, che è Andrea, che dovrebbe essere qui ai microfoni della radio. Bene, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Blackout. Sì. Noi abbiamo ricevuto le lettere di licenziamento giovedì, un licenziamento in tronco. Tra l'altro ieri abbiamo saputo anche dalla Regione che in caso questi licenziamenti vengano mantenuti sarà impossibile chiedere la cassa integrazione, perché la cooperativa ha attivato le procedure di licenziamento senza preavvisare la Regione, quindi sarà impossibile ricorrere anche a questa risorsa eventualmente se si dovesse concludere la vicenda in maniera molto, molto male. Però noi abbiamo subito avuto una risposta molto dura, compatta, e tutti insieme abbiamo scelto di organizzare uno sciopero spontaneo da venerdì. Siamo in sciopero e siamo in sciopero ad oltranza, quindi bentornato sciopero selvaggio, perché noi ovviamente non vogliamo colpire gli studenti, ma per combattere la nostra cooperativa siamo evidentemente costretti a ricorrere all'unica carta che abbiamo in mano per difendere la dignità di lavoratori che abbiamo, ed è lo sciopero. Volevamo chiederti un po' insomma che cosa si è ottenuto questa settimana, visto che sappiamo che siete andati a parlare al servizio delle, come si chiama, la sede delle biblioteche? Sì, l'ufficio bibliotecario d'Ateneo. Ok, e se dopo quello ci sono state delle reazioni sia da parte, non lo so, della dirigenza cooperativa, sia invece qualcosa dall'università? Ma noi adesso siamo fermi alle belle promesse che ci sono state date, parole di tranquillità, parole di sicurezza, di certezze. Noi vogliamo veramente licenziarvi, vogliamo mantenere il servizio, ma guarda, tutte queste belle parole ci fanno solo sentire ancora di più delle tigri in gabbia, perché in questo momento noi siamo molto molto arrabbiati e non abbiamo nessuna intenzione di fermare la nostra rotta solo in base a delle promesse. L'unico fatto concreto che resta è questa lettera di licenziamento per 33 persone, quindi noi terremo duro fino a quando la cooperativa non ritirerà la lettera di licenziamento e l'università non si impegnerà concretamente per proseguire il servizio così com'è nelle biblioteche. Il fatto che noi siamo stati a casa venerdì ha già portato alla chiusura di diversi servizi, sono una dozzina le biblioteche in cui lavoriamo, tra le umanistiche, le medico-scientifiche e economia. E quindi niente, noi teniamo duro fino a quando non avremo la certezza A del ritiro del licenziamento e B dell'intenzione dell'università di mantenere il servizio, che dovrebbe insomma essere, è veramente il minimo, perché noi quello che vogliamo è anche chiedere più investimenti da da parte dell'università per i servizi dedicati agli studenti, viste le perdite che ci sono state all'Ediso, di posti letto, mensa, eccetera. Ma questo soprattutto perché andiamo sistemati noi, che magari sono 20 anni che siamo precari delle biblioteche, ma anche per dare un futuro a voi giovani, un futuro lavorativo dignitoso in questo paese. E non stupisce, però forse, non lo so, vale la pena ancora una volta di sottolineare, diciamo, la modalità che è stata utilizzata in quella che dovrebbe essere una cooperativa. Tu dici: abbiamo ricevuto il fax, la lettera di licenziamento. Sì, esattamente, è un gesto vergognoso da parte del consiglio d'amministrazione di una cooperativa, perché intanto contiene degli errori formali, date sbagliate, notizie sbagliate, come il fatto che non saremmo riassorbiti se subentrasse un'altra cooperativa. E in più la cosa ancora più grave è che al fondo di questa fax che abbiamo ricevuto non c'è la lettera di nessuno, potrebbe essere, cioè non c'è nessuna firma, nessun dirigente della cooperativa si è assunto la responsabilità di firmare un gesto così osceno, tra l'altro in cui è stata sbagliata anche la procedura, come spiegavo prima, e che questo ci impedisce appunto di ricorrere agli ammortizzatori sociali se tutto dovesse andare bene, cioè se tutto dovesse andare male, quindi anche alla cassa integrazione. Ci hanno voluto cacciare così su due piedi, e la motivazione è semplice per loro, ma è veramente inquietante. Ci scrivono che non guadagnano abbastanza, e allora questa è veramente allucinante, perché combatte proprio il principio della cooperativa, che è un principio di sussidiarietà tra i soci. Alcuni di noi sono soci da 15 anni di questa cooperativa, e mostra come ormai le cooperative siano trasformate in aziende che si preoccupano appunto solo del profitto, non certamente delle persone e dei soci. È per questo che forse, insomma, ci sembra davvero importante ribadire come questa non sia una lotta di un gruppo di ristretto, ovvero i bibliocooperativisti, ma ci sembra che questa sia una lotta che va a mettere in luce quelli che sono davvero i meccanismi, diciamoli anche qua, tra virgolette, della cooperazione, perché sono meccanismi che chiunque di noi ha lavorato in cooperativa vede perpetrarsi sempre, cioè veramente quotidianamente, e oltre a questo il fatto che va a coinvolgere anche tutti gli studenti e le studentesse, che immediatamente hanno capito di chi è la responsabilità e, insomma, vogliono sicuramente amplificare la portata della vostra lotta in un momento anche delicato come quello per la vita di uno studente, che è quello della sessione esami che sta iniziando. Sì, ci rendiamo conto del disagio, che però io credo che veramente, come hai inquadrato tu, questa nostra lotta, questa nostra resistenza sia anche un esempio per tutti i dipendenti delle cooperative, che già abbiamo visto, ci hanno contattato. Appunto, noi abbiamo avuto anche lo sciopero spontaneo dei colleghi dell'altra cooperativa che lavorano nelle biblioteche universitarie, che è la cooperativa Copat, che non ha effettuato i licenziamenti, ma i colleghi si sono messi immediatamente in sciopero spontaneo anche loro. Abbiamo sentito altri colleghi che lavorano sempre per l'infame culture di sfruttamento, mi viene solo da dire, che è la nostra cooperativa, che lavorano all'Edus, che ci hanno chiesto come partecipare e sostenere la nostra lotta, così come siamo stati contattati da Venezia, dove ha sede la nostra cooperativa e dove il nostro sindacato, con cui siamo sindacalizzati, la CUB, ha una cellula anche tra i dipendenti delle cooperative, e speriamo che possano prendere un'iniziativa anche nella sede proprio della cooperativa, per far vedere comunque che le persone ormai in Italia hanno capito come si fanno le vere lotte per la difesa del lavoro, non con delle manifestazioni gigantesche come fanno i sindacati ufficiali, che rappresentano solo se stessi, ma partendo dalle lotte di base, dalla difesa di ogni singolo posto di lavoro. Oggi sono 30, ma anche se fossero di meno noi ci saremmo mobilitati lo stesso, anche se avesse colpito solo alcuni di noi. E quindi questo è il messaggio che vogliamo dare anche alla società italiana, perché è il momento di riprendere in mano le lotte e di cambiare la direzione che sta prendendo questo paese. E quindi la prossima settimana, a partire già da domani, diciamo, come si svolgerà? Dunque, noi abbiamo convocato un'assemblea pubblica, cui invitiamo ovviamente tutti il corpo dell'Università di Torino, che sono per noi in prima fase gli studenti, ma anche i dipendenti interni, i ricercatori e i professori, e che abbiamo allargato a tutta la cittadinanza, in particolare a tutti i dipendenti delle cooperative, a tutti i cooperativisti che operano nel sociale, che operano nella sanità, che operano in qualsiasi settore pubblico in cui ci sono dipendenti delle cooperative, cioè un sistema che comunque sono 20-30 anni che va avanti e quindi coinvolge veramente tantissimi lavoratori. Va bene, allora sicuramente appunto... Noi domani appunto saremo dalle 11 nell'atrio di Palazzo Nuovo per questa assemblea. Dopo pensiamo comunque di recarci alla sede della cooperativa Coop Culture qui di Torino in via Sant'Anselmo per fare un assedio sonoro e chiedere comunque il ritiro. Mentre martedì ci sarà per noi un altro appuntamento fondamentale, che è il Consiglio d'amministrazione dell'Università, in cui convocato in fretta e furia proprio per fronteggiare la situazione. Intendiamo organizzare un'iniziativa tutti insieme domani con gli studenti, prof appunto, decidere la forma di lotta con cui colpire il Consiglio d'amministrazione dell'Università. Va bene, l'invito quindi è quello di trovarsi domani mattina, lo ripetiamo, alle 11 nell'atrio di Palazzo Nuovo per questo momento di assemblea e per partire poi verso la sede della cooperativa. Esatto, proprio così. Va bene, Andrea, noi ti salutiamo e sicuramente durante la settimana dalle varie trasmissioni, dai microfoni di Radio Blackout sicuramente vi contatteranno. Vi aspettiamo tutti domani, grazie Daniela per averci dato questo spazio. Ciao Andrea, un saluto, alla prossima. Ciao. 17.01, quindi lasciamo subito i microfoni ad Animal Radio, la trasmissione successiva alla nostra, quindi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana, la prossima domenica. Un saluto anche da me, a domenica prossima. Rimanete sintonizzati su Radio Blackout.